Allora, buonasera a tutti. Sta per cominciare il concerto di Joe Mannucci, che presenterà Acquario, il suo disco. È appena uscito, sono 8 tracce praticamente monotematiche sull'amore sotto diversi punti di vista. Si parte proprio dall'inizio con Clinomania e quindi lasciamo spazio alla musica. Grazie. Grazie. Innanzitutto buonasera. Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao. Allora, clinomania è una malattia, è la malattia di non volersi mai alzare dal letto. Ma conosco. La conosci bene questa malattia? Non sapevi il nome, immagino, forse, perché non lo sapeva nessuno. Anch'io poi l'ho scoperto così. Venite pure, fate spazio che c'è gente dietro. È una malattia, quindi, una patologia. In questo caso viene condivisa con la propria signora, nel mio caso, e quindi questa patologia automaticamente si annulla. Vedi, restare tutto il giorno dentro di te, cambiarci per non uscire mai, viaggiare senza fine stando dove sei. Vedi com'è restare tutto il giorno a galla su di te, ballare come fossi Fred Astaire, dimenticare il mondo che più non c'è mai con te. Non ricordo più neanche il mio lavoro, le cose da fare, i tempi passati. Non ricordo più che ore sono, la nostra vita dove era prima. Vedi com'è restare tutto il giorno dentro di te, sentirsi liberi animali in cerca di emozioni, vizi naturali. Vedi cos'è che fa suonare il vento su di te, le onde ci dondolano accanto, c'è tutta l'armonia nei sogni di un bel canto. Qui con me non ricordo più neanche il mio lavoro, le cose da fare, i tempi passati. Non ricordo più che ore sono, la nostra vita cos'era prima. Non ricordo più se ci sono, se fuori è notte o se è un giorno importante. Non ricordo più che ore sono, la nostra vita dove era prima. Si chiama Acquario questo disco. Perché hai scelto questo nome? Come ti è venuto? Si riferisce a un acquario, al segno zodiacale? Spiegacelo. Sì, è indovinato. Semplicemente sono nato il 10 febbraio, quindi sono acquario. e mi piaceva omaggiare questo, questa sorta di segno zodiacale che poi vuol dire tutto, non vuol dire niente, però non lo so, per come mi dice sempre la mia mamma, che mi dice sei proprio un acquario, no? Allora dicevo, cosa vuol dire sono proprio un acquario? E per le caratteristiche che lei mi propinava, che poi anche Paolo Fox e altri mi hanno raccontato, un pochino ci azzeccano, quindi un po' l'anima con la testa tra le nuvole, e una certa bellezza artistica o comunque voglia di proporsi, e questo sì, quindi acquario in quel senso. Quindi da acquario hai fatto un disco abbastanza sulle nuvole, in aria, diciamo, no? Un disco del genere. Come è nato questo disco? Come è partito il lavoro su questo disco? Allora, questo lavoro è partito innanzitutto da una collaborazione importantissima che ho fatto con un produttore artistico che si chiama Ale Bavo, che ho conosciuto grazie al Sinfonico Honolulu e alla figura anche di Daniele Catalucci, che è qui con noi oggi, poi dopo ve lo presenterò. E Ale Bavo è un produttore artistico che ha lavorato con i Subsonica, con Levante, anche con Mina, e poi ha deciso di venire in camera mia e di registrare questo disco insieme. Sì, no, io appunto dopo averlo conosciuto col Sinfonico Honolulu, che aveva prodotto un disco con noi, il Sinfonico è un'orchestra di ukulele che in quel momento registrava un disco di inediti, di brani inediti, insieme a lui, e in quell'occasione è nato veramente una sorta di amore estremo con questo ragazzo, che poi abbiamo approfondito appunto nella registrazione di questo disco. Le ho mandato dei provini e lui ha gradito, io non pensavo mai che potesse accettare questa proposta, e quindi per andare contro, diciamo, le difficoltà economiche di questi tempi, abbiamo deciso di farlo in camera mia, semplicemente. C'era questo lettone gigante che rompeva un attimino le scatole, però va bene, e un cane che mentre registravi ti guardava e voleva le coccole, ma te c'avevi da registrare la chitarra, tutte cose un po' così, e la voce l'ho registrata nell'armadio. Ad ogni modo, se poi ha un'ottima strumentazione Riesce a registrare, ce la puoi fare. Ora, non è registrato la Abbey Road, dove registravano i Beatles e dove hanno registrato tutti i grandi, però insomma esce fuori un lavoro che è sicuramente ascoltabile se avrete l'occasione. Hai detto 8 canzoni col tema, diciamo, portante l'amore. Qual è quella che senti più vicina a te, che ti piace pensare che è quella che ti rappresenta meglio? Da questa che ho fatto sino adesso, sicuramente è una delle che più apprezzo. Il brano invece Come le nuvole, che è l'ultimo singolo che è uscito, c'è anche un video, se andate su internet, dove c'è anche Appino e grandi artisti, anche Tommaso Novi che è venuto qua, e sicuramente rappresenta bene, come si diceva prima, il discorso dell'essere un po' tra le nuvole, e quindi ci sta questo pezzo qua. Se volete lo facciamo ascoltare. Io lo farei sentire. Allora, fate un applauso a Daniele Catalucci, per favore, bassista di Virginiana Miller, spero che conosciate. La fama la fama la fece. Manuel avrebbe molto. Manuel. Sì. Ci tengo anche a ringraziare René, a cui dovete fare un applauso, a tutto lo staff del negozio, a Federica. Davvero una cosa bellissima, sono in un negozio di musica, essere dentro un negozio di musica, sempre più difficile, immagino. Donne formose e moti ondosi. Vedi caro amico, ciao, che i fiori pari sbocciano, hanno dato per Mario Chen, confidando. se fa la spesa e balla, qualcuno fischietta Lucio Dalla. Come avrai capito, le gocce passano, si formano, talvolta con criterio, talvolta basta uno slancio di novità. Per fare questa canzone, ma mi maledico il giorno che l'ho scritta. Si chiama Sotto la pioggia, e forse era meglio se si chiamava Sotto il sole cosciente. Ma invece è capitato che mi sono capitato di lasciarsi, tornando al discorso dell'amore, delle relazioni sentimentali, è capitato di lasciarmi proprio sotto la pioggia. E quindi ritorno a certi giorni, agli agriturismi ed adesso ai dintorni, e vedo gli occhi di noi illuminati ormai, e scorro qualche foto, quelle al Lido di Venezia e quelle al porto, e come l'ingenuità quando si accendono la gravità. Restiamo sotto la pioggia, abbracciati all'ultime, pure tra noi non resta il segreto, non servirà, non servirà. L'oscurità mi ha preso per il callo, i miei ricordi si appannano come i vetri dell'auto quando si fa l'amore. Restiamo sotto la pioggia, abbracciati alle ultime, pure tra noi e già dal vero scena si aprirà. Prima o poi la voglia tornerà di abbandonarsi alla curiosità. Grazie. Farti conoscere un pochino meglio, quali sono i tuoi punti di riferimento musicali? Chi ascolti te nel tuo tempo libero, quando devi ascoltare te la musica? Allora, ultimamente mi sono appassionato di un artista italiano che si chiama Gaemon. Mi piace tanto, non so se... Che è stato qua da noi. Che è stato qua da voi, avevo dubbi, infatti. E che presenta anche un libro, no? Non so se era... Ah, ok, adesso c'è anche un libro. Che tra l'altro suonerà a Livorno, noi saremo a suonare invece a Firenze quella sera, ma questo non ci combina niente. E, anzi, no, invece ci combina, la prossima settimana suono a Pisa, così se vi va il sabato all'Ex Wide, insieme alla band. Sì, grazie. E allora, influenze artistiche, mi dicevi. Io ho sempre ascoltato musica anglofona, fondamentalmente. Quindi anche questo disco magari è un po' influenzato da artisti come, non so, Damon Albarn, che ha fatto un disco solista che è un capolavoro, bellissimo, cantante dei Gorillaz che saranno qua dietro quest'estate, tra l'altro. E mi è cambiata la vita quando ho sentito un artista che si chiama Sufjan Stevens, proprio mi ha aiutato proprio anche a superare un periodo veramente tosto della vita in cui stavo perdendo una persona carissima. L'ascolto di questo musicista mi aiutava veramente ad andare avanti nel quotidiano. Sufjan Stevens, ascoltatelo. Tutti i dischi che si trovano allo Sky Store. Tutti i dischi che trovate qua, sicuramente. Se ci sono anche dei vinili, quasi quasi, non è male. Vediamo se ci riprende anche il terzo. Il terzo, invece, tornando alla musica italiana, visto che poi alla fine vi dico musica anglofona perché vengo anche da scritture in inglese. Suonavo in una band che si chiama Mandrake, per cui ho sempre scritto testi in lingua inglese. E invece adesso, appunto, con questo disco in italiano ci possono essere delle similitudini o comunque delle ispirazioni, mi viene in mente Daniele Silvestri o grande maestro Lucio Dalla, che insomma penso che ci piaccia a tutti, lo spero. E Lucio Dalla ce l'avevo sempre in macchina dei miei, e è di quegli artisti appunto che dalla macchina dei miei poi l'ho trasportata anche sulla mia, a differenza magari di Renato Zero, che è rimasto nella macchina della mamma, sì. Però Lucio Dalla invece ci è venuto. Baby. Grazie. Hai detto che hai scritto testi sia in inglese che in italiano. Ti trovi meglio a scrivere in inglese o in italiano? E la cosa, diciamo, passaggio del tappino è fondamentale. Non è il caso. Ti riesci a esprimerti meglio in italiano o in inglese? Allora, in italiano è stato il primissimo disco, ho trovato sicuramente molto difficile comunque esprimersi nella propria lingua, sebbene sia la tua lingua. L'inglese c'è dalla sua, che ho suonato molto in Italia con questo gruppo, c'è dalla sua che quando canti nessuno purtroppo ti capisce, e quindi a livello di testi è anche un po' più facile esprimersi, però sicuramente magari i contenuti riescono un po' di perdersi a volte, perché o sei madrelingua inglese e allora sei padrone completo della lingua, ma non essendolo. Quindi l'italiano sicuramente è molto più soddisfacente, se poi riesci a trasmettere a queste persone che ho qui davanti oggi quello che volevo dire nei miei brani, il risultato è vittorioso, sono molto contento. Vai, diamo spazio alla musica. Allora, continuiamo, visto che parliamo in italiano. Dani, che canzone vuoi fare? Perché Dani ci siamo trovati oggi così, è stata proprio estemporanea questa cosa. Mi ha scritto, io se vuoi ci sono, vieni. E ora, in realtà, Dani ha registrato i bassi di questo disco. Un anno fa, sì, giusto. E se non mi sbaglio eri anche in Vestaglia, vero? Perché hai mantenuto... in camera col cane che saliva. Ha detto: io vengo in vestaglia e in pantofole, così manteniamo, manteniamo il mood casalingo. La prima canzone ci sta. Infatti. Allora, per renderti la vita difficile, Dani, potremmo fare. Ah, sì. Successo. Sto cercando Allora, questo pezzo ci tengo tantissimo a dedicarlo a dei bimbi che sono venuti apposta, tra l'altro, Francesco e Tommaso, perché dovete sapere che io insegno chitarra qui in zona, a Capannori, e questo è un pezzo che ho scritto anche grazie a loro, fondamentalmente, perché parla di bambini, e si chiama Tipico della tua età. E se comprerete il disco poi dopo sentirete che alla fine di questa canzone c'è proprio una traccia che ho registrato proprio con i bambini che parlano del ritornello, insomma, sentite. Grazie, ciao. Anzi, se venite anche qui davanti è anche più bello, vi potete mettere a sedere per terra, fatelo pure, non vi perdete, vai, bravissimo. Ci metti anch'io insieme a bambini. Vieni. Tipico della tua età, rotolarsi senza perplessità, libero nell'anima, saltare senza responsabilità. Tipico della tua età, essere belli senza la vanità. Ludico è il tuo sogno che puntualmente chiedi mai, e perché quelli ancora non li vai. Ti sei scordato dell'ultima festa, quella dove eri anche te, eri a giocare con tutti i tuoi amici, coi tuoi davanti a un caffè. Ma poi cosa succede? Lavoro da vita. sola. Allora, vai. Dai un colore alla tua musica. No, è quello che dico sempre a loro, mio lato. Ciao. Così stavolta rispondi. Imparate così. Io dico blu, mi viene blu. Automaticamente. L'acqua, l'acqua. Acqua, sì, è tutto. La pioggia, no, la pioggia no, però insomma, è sempre acqua anche quella. È sempre acqua anche quella. A parte che l'acquario è un segno d'aria, ma insomma. Sì, è vero, abbiamo scoperto. Lo disse Paolo. Sempre Paolo Fox. Sempre Paolo Fox. Allora, facciamo gli ultimi due brani, se non mi sbaglio. Sì, facciamo gli ultimi due brani. Il disco è di 8 pezzi, ne facciamo 7. L'ultimo rimane così. Nel mistero più totale. E dopo tutte queste risate facciamo un pezzo un attimino un po' più malinconico, giusto per così. Allora, ho fatto un viaggio una volta ed era la città più sbagliata, più triste del momento. Era Parigi, un mese dopo il Bataclan. Quindi ormai avevo preso i biglietti e ci dovevo andare. E l'atmosfera era davvero pesante, erano le prime volte che si vedevano mitra, esercito dappertutto, a tutti gli angoli, le rose erano appostate davanti ai locali colpiti. E quindi era difficile godersi la classica atmosfera parigina, no? Andavi a giro, ma non ce la facevi a non pensarci. L'ultima sera, per miracolo, quasi come per miracolo, sono finito in un bellissimo piccolo locale dove suonava questa signora di 86 anni che si chiama Francesca Soievie, e lei cantava canzoni di rivolta studentesche sessantottine, quelle che lei aveva veramente vissuto. Era accompagnata da un piano, aveva un'energia tale che io avevo la pelle accapponata così, pur non capendo niente di quello che stesse cantando e dicendo. E tutti i parigini che erano lì intorno avevano gli occhi chiusi e cantavano insieme a lei queste canzoni di tradizione, diciamo, insomma, tradizionale. E quindi diciamo che quella sera mi sono immaginato, ho potuto percepire che c'era un modo, c'era una via per andare avanti, per poter pensare di poter anche andare avanti e allontanare tutto il male che era successo prima, attraverso la sua voce, attraverso la musica, attraverso l'idea di comunità, di comunione, no? E così ho scritto questo pezzo, immaginandomi di essere il gestore di questo locale. La luce del mattino entra dolce sul tavolino del mio bistrò. Riempie la stanza di colori, vecchie gioie, vecchie attenzioni trascurate. Prova a sentirne l'odore, la calma ragione inevitabile di essere, di essere così semplice. E tu rimani, lascia le impronte sul bicchiere di vino e sulle ombre dietro di te. Vedi la gente ieri sera si è svegliata, seduta da una serenata di una chansonniere. Prova a sentirne la voce, le carte che tremano funambule, vedrai che, vedrai torna da te. Thank you. sono funambule, vedrai che, vedrai che tutto torna da te. Ha fatto apposta, ha preso il piatto con le calze. Tutto calcolato. Non si lascia niente a casa. Va bene. Allora, capita anche di litigare. Quando siamo spesso, no? Spesso, insomma. Specie all'inizio. Con la... specie capita anche di fare delle risse se hai una donna che è del segno del leone, che è del segno dello, del sagittario, è del segno del sagittario e alla mano facile, diciamo così, a caso alla mano facile, o comunque l'aveva all'inizio sicuramente, e quindi capita anche di scrivere delle canzoni per fermare nel tempo queste litigate, queste risse. Questa canzone si chiama Regina Falò. Io vi ringrazio con tutto il cuore di essere rimasti qua, davvero, di essere venuti malgrado questo tempo da Lupi. Grazie, fatevi un applauso. Ringrazio Dani, ti ringrazio. Amore, dove sei? Quel che ho davanti somiglia più a un muro dove appendere tutti i diamanti che hai in tasca rubati al futuro. Ed ecco che ci sei, come posseduta, alzi la voce, ma è la voglia di scannarsi e di litigare che ci unisce. Sembra una mania, o è soltanto una nostra pazza coreografia. A te che sei qua, io ti dico scappiamo, il tempo non ritornerà. Addio, il pezzo che ci fa ballare come mai prima. Sei la mia regina Falò. Io poi ti riconosco. Sei la mia regina Falò. Ma poi ti riconosco. Sei la mia. Dopo tutte le parole, tutti gli schiaffi, perdo il filo, i dettagli. E più che ti lancio tutti i miei, perché no, non mi va di restare a guardare. Dico no, non mi va di restare a metà. Sembra una mania, o è soltanto una nostra pazza coreografia. A te che sei qua, io ti dico scappiamo, il tempo non ritornerà. Alla radio, il pezzo che ci fa ballare come mai prima. Mi meraviglio un po', ma poi ti riconosco, sai. Thank you. Grazie a voi.